Buonasera, grazie al VAG, grazie ad Alegre, grazie ai Wing, siamo qui a presentare Prolet, il nuovo romanzo di Wing. Come avete visto il tema è un tema interplanetario, si parla di alieni, si parla di visitatori da altri pianeti. E pensavo prima che questo è uno dei temi che è stato, se ne discuteva forse anche con Roberto a proposito della cosa che ha scritto sulla cospirazione, la grande congiura del silenzio sugli alieni è una delle sottotracce che stanno nelle teorie cospirazioniste in Nord America, sono monopolizzate molto e strumentalizzate molto dalla destra e dall'estrema destra. E qualcuno teorizza addirittura che la grande chiave con cui la paranoia cospirazionista è entrata nel linguaggio pop e nella massa è stata X-Files, che è sotto il grande cappello della congiura del silenzio sul fatto che gli alieni sono già tra di noi, e ha fatto passare tutte quelle storie cospirazioniste, le paranoie cospirazioniste che circolavano a mezza bocca, e le ha fatte entrare nel linguaggio pop e le ha rese accessibili. E qui si fa un'altra operazione molto più ardita, molto più complessa, si fa un'operazione in cui gli alieni hanno a che fare con la rivoluzione russa. Mi sento complice di una trasfusione di questo libro, e che a mia volta io ho ricevuto una trasfusione, poi capirete anche perché, chi non ha letto il libro capirete anche perché utilizzo questa metafora, perché per una pura coincidenza, pochi giorni prima di incontrare Wing 2 a Roma, ormai quanto tempo fa, 2 anni fa, quanto ci ho messo a scriverlo, mi era stato parlato di questo libro, Stella Rossa, un libro di fantascienza scritto da un comunista sovietico, uscito nel 1908, giusto? Io non l'avevo letto, e Giovanni, Wing 2, Giovanni mi raccontava questa storia che stavano iniziando a scrivere, mi raccontava i materiali che iniziavano a maneggiare, quindi gli ho consigliato questo libro che io ancora non avevo letto, che ancora non ho letto, abbiamo qui il traduttore di Stella Rossa, quindi figuro in maniera assolutamente indegna. È molto curioso il modo in cui io vengo a sapere questo libro, perché è stato tradotto in realtà per la prima volta nel 1990 da un professore di liceo di Catanzaro che si chiamava Giovanni, morto da poco, da un paio d'anni, a Bologna, perché a un certo punto si era trasferito a Bologna, si chiamava un professore comunista di liceo che traduce e praticamente stampa a spese sue Stella Rossa e l'ingegnere Menni in un unico volume. Come si chiamava? Giovanni Mastroianni. Abbiamo una testimonianza. Dai, Catanzaro. Io da Cosentino soffro molto a dire questa cosa di Catanzaro. Però lui ha trovato fama nell'università della Calabria. Era un compagno, dai. Era un compagno. E quindi lui tradusse dal russo Stella Rossa, per una casa editrice che credo abbia stampato solo questo libro, che si chiamava Sine Fine. Io non, appunto, quindi io posseggo questo libro che mi è stato dato dal nonno dei miei figli, posso dire, e quindi cioè, questa trasfusione è arrivata fino a questa storia, anche questo è un pezzo di questa storia. Oggi ho scritto su Dynamo Press una recensione di questo libro in cui lo definisco una utopia imperfetta, perché Stella Rossa è in qualche modo di Bogdanov, in qualche modo un'utopia, racconta un pianeta Marte, una stella rossa per l'appunto, in cui si è realizzata una sorta di socialismo, in cui esiste il comitato centrale, ma un ufficio statistico che si occupa solamente di dare le informazioni a delle assemblee locali che utilizzano queste informazioni per prendere le decisioni più giuste. I figli vengono gestiti collettivamente, vengono educati da persone che stanno tutte insieme, che vivono tutte insieme, e però è un'utopia imperfetta in qualche modo, perché non è pacificata questa storia. Non è pacificata, è una storia che trova delle contraddizioni. Questa è la prima domanda che vi farei, per l'appunto, su Stella Rossa e poi arriviamo al romanzo. Bogdanov scrive un mondo ideale in cui ci sono delle contraddizioni, in cui esistono delle contraddizioni, in cui non siamo arrivati alla fine della storia, bisogna risolvere delle contraddizioni. Sì, è una dichiarazione, diciamo, di sopravvivenza della contraddizione anche dopo, ecco, che la società si è rivoluzionata. Non c'è più la lotta di classe, ma è rimasto il conflitto su Marte, appunto, tra i marziani e l'ambiente circostante. Il fatto che la vita si sia allungata grazie alle trasfusioni e grazie al benessere collettivo fa sì, insomma, che la popolazione sia aumentata troppo, le risorse cominciano a scarseggiare e quindi c'è un problema. Come si risolve questo problema? E c'è un grosso dibattito su Marte a questo proposito. C'è un partito dei falchi e uno delle colombe. I falchi dicono che bisogna che andiamo a colonizzare altri pianeti, o noi o loro. Noi tutto sommato siamo la società più avanzata perché noi siamo già socialisti, appunto, e gli altri in qualche modo dovranno farsene una ragione. Le colombe dicono no, non si può. Cioè, questo significherebbe negare in qualche modo tutte le cose che abbiamo sempre sostenuto, bisogna praticare l'interplanetarismo, diciamo così. Cioè, bisogna che noi ci consorziamo con le parti più avanzate di queste società per vedere di trovare una soluzione comune, interplanetaria, appunto. Poi c'è un terzo partito, che è tesi, antitesi, sintesi, ovviamente, sono rigorosamente. E quindi c'è un terzo partito, diciamo un terzo parere, che in qualche modo trova una soluzione, che poi fondamentalmente vuol dire non andare a colonizzare la Terra ma Venere, dove non c'è nessuno, insomma, sostanzialmente la risolvono così. Però la questione ovviamente è grossa, ecco, e a noi è piaciuto moltissimo il fatto che, appunto, uno scrivendo un'utopia in realtà poi ci metta dentro gli elementi di contraddizione. L'utopia non è affatto perfetta. E qui ti interrompo, perché tutto questo cosa c'entra con Project Cool? C'entra perché Bogdanov, a un certo punto, loro scrive saggi che hanno suggestioni letterarie, che contengono delle idee letterarie, e romanzi che hanno delle idee da saggio, come Stella Rossa. Questa cosa vi ricorderà molto un po' lo stile Wingiano. Non è un caso, perché Project Cool è esattamente uno dei temi, delle sottotracce che attraversano questo romanzo, è che Bogdanov, che è uno dei protagonisti, non direi il protagonista, se siete d'accordo, direi uno dei protagonisti, uno dei personaggi principali sicuramente, a un certo punto si trova a incontrare di fatto uno dei personaggi del film. Scopre che quello non è un romanzo, ma che forse potrebbe essersi realizzato, essere avvenuto realmente. E qui abbiamo una figura molto interessante, una figura di appunto di eroe imperfetto, poi farò una domanda anche su questo, ve ne dico perché ti tocca. È una figura di eroe imperfetto che ha vissuto la rivoluzione. Non si racconta mai il momento della presa del Palazzo d'Inverno in Project Cool, si racconta il prima, il dopo, il durante, alcuni scenari, che ha vissuto la rivoluzione in maniera obliqua, in qualche modo l'ha sconfitto, l'ha sostenuta, ma la sua linea è stata sconfitta, perché lui si è scontrato per la sua idea di organizzazione con Lenin, diciamo prima con Buminguno, che una lettura superficiale di questo romanzo dovrebbe farlo passare per un romanzo anti-leninista, ma non è così. Anche Lenin ne viene fuori, anche lui come un eroe imperfetto, con le sue contraddizioni, che si deve barcamenare, che deve fare politica, che deve maneggiare la storia, per l'appunto. E quindi avete capito benissimo che il Wing, dopo aver affrontato la grande rivoluzione americana e manituana, la rivoluzione francese nell'armata dei sonnambuli, si cimentano con la grande storia della rivoluzione russa. E a questo chiederei a Wing 1, come si arriva ad affrontare questa rivoluzione, una rivoluzione che si trova la chiave anche questa di guardare in maniera obliqua, in maniera totalmente inaspettata, in una maniera che non la celebra, e in questo modo ne coglie le... C'è un analista, un saggista croato che si chiama Darko Sudic, che ha, è il primo che ha nobilitato dal punto di vista teorico la fantascienza, che dice che la fantascienza produce uno straniamento cognitivo, cioè ti fa fare delle domande che non ti faresti mai leggendo altri tipi di romanzi. Questo è un romanzo che da questo punto di vista è pienamente di fantascienza, anche se non è un classico romanzo di fantascienza, perché ti fa fare molte domande sull'oggi, ma anche sulle possibili strade che avrebbe potuto prendere la rivoluzione russa. E quindi queste tre rivoluzioni e la rivoluzione russa. Sì, buonasera a tutte e a tutti intanto. È un libro di fantascienza o è un libro sulla fantascienza? In realtà questo è indecidibile. Sono domande marzulliane. No, perché... cioè, sì, sono domande marzulliane, ma nel senso che è indecidibile. Cioè, anche Marzullo ti fa delle domande cioè, che non possono avere una risposta, qualunque risposta. Qui, in questo caso... a seconda dello sguardo che uno sceglie di avere sul libro, e cercherò di dire questo senza spoilerare, automaticamente il libro ricade di qua o di là. Se io scelgo di avere un certo sguardo, è un libro realistico sulla fantascienza e sull'impatto che può avere la fantascienza sulle persone, sulla loro immaginazione, sulla società e sull'utilità che può avere la fantascienza come strumento. Se io scelgo un altro sguardo, diventa pienamente un romanzo fantastico e fantascientifico, ok? È indecidibile, può essere entrambe le cose, a seconda di quello che uno sceglie di credere riguardo a uno dei due protagonisti, cioè a Danny, ok? In base a quello. È un romanzo che si pone proprio su una lama di rasoio, non sai dire se è un romanzo realistico o un romanzo fantastico, se fa parte della letteratura realistica, storica che abbiamo praticato finora, o se invece è un salto diretto nella fantascienza. Sono vere entrambe le cose, in due mondi paralleli, il libro è due cose diverse, a seconda di quale mondo parallelo tu scegli di abitare con la tua lettura. E questo ha degli impatti anche su come raccontiamo la rivoluzione, chiaramente. E sì, il libro si infila, cioè si inserisce in una sequenza, come giustamente hai detto. Noi abbiamo dedicato Manituana alla rivoluzione americana raccontandola dal punto di vista degli irochesi, dei nativi americani irochesi delle Six Nations, che si spaccarono in quel frangente lì e alcune tribù, alcune nazioni della Confederazione scelsero di combattere per Re Giorgio contro il Continental Army di George Washington e altre tribù invece scelsero di fare il contrario. Noi abbiamo raccontato questa lacerazione e soprattutto abbiamo raccontato la rivoluzione americana dal punto di vista di chi l'ha subita, cioè degli indiani. Automaticamente, scegliendo questo sguardo, la rivoluzione americana non è più una rivoluzione. Okay? È semplicemente un atto di sostituzione di un colonialismo a un altro. Da un colonialismo lontano che lasciava ai nativi americani un qualche margine di autonomia, a invece un nazionalismo vicinissimo. Era la scelta, come dissero allora, era la scelta tra avere un solo tiranno a 2000 miglia da casa o 2000 tiranni a 1 miglio da casa. Quindi in quel caso lì la rivoluzione l'abbiamo decostruita dal punto che non era più tale. Diverso il discorso che abbiamo fatto sulla rivoluzione francese, con l'armata dei sonnambuli, perché lì abbiamo scelto delle tematiche che ci permettessero di vedere la rivoluzione francese da proprio direzioni inaspettate, non so, il mesmerismo, appunto la teoria sul magnetismo, la follia, quindi da dentro il manicomio di Bicêtre, la condizione delle donne, cioè l'importanza, il protagonismo delle donne nella rivoluzione francese, quando abbiamo quasi sempre appunto queste raffigurazioni con i grandi nomi maschi che erano alla convenzione, eccetera, e poi il punto di vista di un expat, come si chiamano oggi, di un cervello in fuga, un attore bolognese che stava a Parigi in quei giorni e che diventa un supereroe, quindi più deviante di così non potevamo averlo come sguardo clinico. Qui abbiamo fatto un'operazione secondo me più delicata, cioè rispetto al massimalismo bombastico dell'armata dei sonnambuli, qui abbiamo fatto un romanzo cercando di convogliare sulle pagine anche tutta la grandezza del processo rivoluzionario, quindi si allude continuamente, no, a questo gigantesco evento che è accaduto nel 17, i suoi prodromi del 1905, grandi destini collettivi, coralità, le vicissitudini del partito bolscevico quando era clandestino e in esilio, i grandi scontri politici passati alla storia, le grandi dispute filosofiche, addirittura apertura allo spazio interplanetario, però raccontato, abbiamo cercato di fare anche in una dimensione intima e interpersonale, cioè quindi cercando anche, sì, appunto, come ho detto prima, un approccio più delicato, tanto da appunto piazzarci in quel limite che non ti fa nemmeno dire, cioè che sono bene entrambe le interpretazioni, tutto quello che sta avvenendo è vero o no, cioè tutto quello che viene raccontato di quel mondo fantascientifico, e a seconda appunto di quale sguardo uno vuole attivare. E questo appunto ha delle ripercussioni su come raccontiamo Bogdanov, e quindi di conseguenza ha delle ripercussioni su come raccontiamo la rivoluzione. L'equivoco che sia un libro antileninista dipende lì da cosa uno sceglie di interpretare, cioè nel senso che Lenin è sempre descritto dal punto di vista di Bogdanov o di sua moglie, no? Quindi di persone che sono state molto scottate dal rapporto con Lenin, e Lenin è sempre dentro il flusso di coscienza e il flusso di ricordi di Bogdanov. Allora uno può decidere, gli autori aderiscono a quel flusso di coscienza o no, in base a quello che uno sceglie di credere, può diventare un libro antileninista o forse il suo contrario addirittura. È uscita fuori in questi giorni una storia incredibile, oggi è uscita, no? Una bomba della che dicevamo prima, cioè che pare che Gramsci, che non ha mai incontrato Bogdanov perché Lenin non lo salutava, a un certo punto Lenin dice: non posso più chiamarti compagno, una cosa che fa rabbrividire per lo scontro proprio strettamente, direi, prima filosofico che politico, Gramsci, su come si intende l'organizzazione, la politica, la lotta. E pare che Gramsci però non l'avesse incontrato, proprio perché aveva rapporti con Lenin quando andava a Mosca, e però avesse perorato una traduzione del libro di Bogdanov che poi non uscì più. Sarebbe una bomba, perché anche questo ci darebbe per l'ennesima volta, ci aprirebbe un varco verso una storia alternativa che poteva esserci con Gramsci e Bogdanov che gestivano i processi rivoluzionari. Chiederei ai nostri compagni del collettivo Ulianov invece, che hanno tradotto Stella Rossa, hanno realizzato la cosa che Gramsci e quindi sono gli emuli di Gramsci e del compagno Giovanni Mastroianni di Catanzaro, e chiederei invece questo linguaggio, tra come è stato tradurre questo linguaggio che si muove di una persona abituata a muoversi tra le discipline e teorizzare la completa rottura delle discipline, fino a utilizzare appunto il romanzo come strumento di analisi politica, e al contrario arriverà persino a sperimentare su se stesso le sue teorie mediche sulle trasfusioni, una storia che è raccontata anche nel romanzo. Come questo, il compagno Bogdanov, come scriveva? C'è un po' il linguaggio legnoso della teoria dell'analisi politica, oppure e della filosofia, oppure è un grande romanziere? Allora, per cominciare ti dico quello che hanno scritto i traduttori inglesi nella prefazione alla traduzione degli anni Ottanta, che Federico Giovanni, volume 4, 2, scusate, hanno letto prima di cominciare a scrivere la parola culta. I traduttori americani hanno detto: scusate se non ci atteniamo espressamente alla forma, perché Bogdanov non era un grande romanziere. Questo si può anche capire anche dal loro punto di vista, perché sappiamo che spesso gli anglosassoni tendono a distanziarsi abbastanza dalla forma originale, soprattutto per quanto riguarda il russo. Noi siamo stati molto più aderenti all'originale pur tentando di modernizzare il linguaggio, ovviamente, perché è un romanzo che quest'anno compie 110 anni, cioè vuol dire non è niente. E, oltretutto, voglio dire, rispetto a quello che dicevo con uno prima, anche Stella Rossa può essere visto, vero, può essere letto da due prospettive, verissimo. Perché se uno lo legge come romanzo di fantascienza, ok, si immagina di andare su Marte, di vedere questa società utopica, però se uno toglie il suo strato fantascientifico, è un manifesto politico, Stella Rossa, del pensiero di Bogdanov, delle sue visioni, delle contraddizioni, perché ovviamente era questo anche, come ha detto Federico prima. Passerei la parola alla mia socia per quanto riguarda un po' di più il discorso linguistico, ecco. Faccio parlare lei perché lei è sovietica di nascita, quindi cioè, io intanto mi alzo, vado al comodino, tiro fuori il suo certificato di nascita, me lo guardo, poi lo metto via, così mi sento meglio. Grazie per la perfetta introduzione. Allora, cosa posso dire della traduzione? Sì, abbiamo cercato di essere molto fedeli al testo, naturalmente non è una traduzione alla Google Translate, perché altrimenti non riesci mai a dare la lingua del libro. Non capito niente, assolutamente. Per quel che riguarda il testo come manifesto politico, vorrei più che altro riprendere quello che è stato detto sull'utopia imperfetta e anche sul fatto dei falchi e dei gufi. Allora, è utopia se consideriamo quello che pensava Bogdanov sull'esito della rivoluzione. Cioè, sono più che altro le sue aspettative veramente utopistiche se consideriamo quello che lui sperava che questa rivoluzione potesse portare alla Russia. Invece è imperfetta perché appunto riusciamo a vedere quello che non funziona in questa società. Non funziona tanto, non funziona l'ecologia, non funziona il lavoro, non funziona anche in un certo senso il rapporto sentimentale. Appunto c'è un discorso sulla monogamia e poligamia, c'è un discorso sullo sfruttamento del territorio, sulla carenza del cibo, eccetera. E se posso, per non allontanare dalla traduzione, è stato molto difficile non per il linguaggio che Bogdanov ha usato, perché in certi momenti era anche troppo semplicistico, ma era prima di tutto la difficoltà di poter capire quello che lui voleva dire. Fidatemi, non era, in certi momenti era veramente una sfida poter trasmettere le sue idee molto complicate, complesse, su certi aspetti della rivoluzione. Sì, adesso riprendo un attimo anche quello dei gufi e dei falchi. Allora sì, è una propaganda, ma da un altro lato io ci vedo anche una narrazione di quello che era il processo della rivoluzione, quello che stava accadendo, appunto il romanzo viene scritto nel 1908 e la rivoluzione è ancora in processo, è in sviluppo, sta andando avanti, ci sono le correnti, i bolscevichi e i menscevichi. E se consideriamo queste due direzioni, queste due opinioni su cosa fare, distruggere e colonizzare questo mondo, oppure andare, diciamo, con le buone, non possiamo forse vedere i bolscevichi che avevano un atteggiamento un po' più aggressivo, volevano annientare tutto e ricostruire tutto da zero, e invece i menscevichi come Netti che dice no, cerchiamo di apprezzare la terra perché bisogna anche cercare di educare la popolazione che vive sulla terra e dare il tempo necessario a questa popolazione che ha necessità del tempo per riuscire ad avere le opinioni giuste per questa rivoluzione. Io appunto vedo i falchi e i gufi in questa prospettiva. Tra l'altro vorrei aggiungere una cosa su Lenin, perché Lenin in realtà è citato in Stella Rossa, come, esatto, in una delle parti asportate, ok? Noi l'abbiamo messa in nota nella nostra traduzione, è il vecchio della montagna, viene considerato un uomo che è talmente inflessibile da non poterci trattare. Cioè, questo è quello che diceva Bardan. Tra l'altro Lenin, ed è una cosa che ho mandato a Lumin 4 quando credo che eravate in revisione del romanzo e noi della traduzione, ha scritto di Stella Rossa, ha dato la sua valutazione e poi l'ha fatto anche con l'ingegner Manny. Cioè, non era proprio, diciamo, estraneo a quello, anzi, seguiva bene quello che faceva Bardano. Nel libro, cioè, viene raccontata nei dettagli la partita a scacchi tra Bogdanov e Lenin sotto gli occhi di Gorky, che si gioca sull'isola di Capri nel 1907, ha scritto Girolamo De Michele sul manifesto che vince Bogdanov perché ci mette non lo sguardo oggettivo, ma ci mette la soggettività, ci mette una lettura delle cose in movimento. Il realismo non è fotografia, ma è cinema, a un certo punto si dice immagine in movimento. Questo è uno dei temi, avete capito che qua questo uno dei temi che scorrono attraverso Project Cult è il rapporto su cui ci rompiamo le corna da diversi decenni, anche quelli prima di noi, tra politica e società, tra cultura e rappresentazione, tra sulle forme di organizzazione, c'è tutto in questo. Bogdanov davvero un'idea radicalmente diversa da quella di Lenin. È uscito qualche anno fa un libro edito dalla casa editrice dell'MIT che si chiama How Not to Network a Nation, che racconta la storia rimossa della rete internet sovietica. Ed è molto interessante perché la rete internet sovietica, e allora qui ci piace pensare che erano dei bogdanoviani che erano arrivati negli anni 70, perché la rete internet sovietica, mentre internet negli Stati Uniti unisce le università, in Unione Sovietica l'idea era di unire le fabbriche per superare quei problemi di pianificazione produttiva che il partito non riusciva a gestire, e quindi costruire una specie di ufficio centrale statistico di Stella Rossa che mettesse in rete le fabbriche e costruisse una forma di potere orizzontale dei produttori. L'ho un po' forzata, ma più o meno era così. Non è un caso che se adesso in Russia ancora esiste una disciplina che si chiama cibernetica economica, che viene studiata solamente in Russia, quindi purtroppo questa rete è fallita, come sappiamo, non sto spoilerando niente, sappiamo col senno del poi. Però qui c'è questo scontro molto forte tra due visioni completamente diverse. Bogdanov, nel corso del libro, le racconta attraverso delle riflessioni, attraverso i dialoghi che fa, e dice che la cultura, conoscere è già cambiare il mondo, e per Lenin questa è una forma di idealismo, e che l'organizzazione, questa è un'organizzazione che deve diffondere la coscienza, perché a un certo punto si dice ucciso lo zar, non è detto che lo zar non ci sia ancora in qualche modo, e allora qui il tema è tutto politico, è tutto dentro questo lo scenario che viviamo, ed è però uno dei nodi centrali del romanzo. Una delle cose che ci ha affascinato di questi personaggi, innanzitutto il personaggio di Bogdanov, che ammetto non conoscevamo, cioè ci siamo imbattuti nel romanzo, dal romanzo all'autore, dall'autore a tutte le persone che è stato nell'arco della sua vita, perché in certi casi sembra, uno penserebbe a un caso di omonimia, davvero, cioè l'istituto trasfusionale di Mosca è intitolato a Bogdanov. Appunto, alcuni romanzi di fantascienza sono scritti da questo Alexander Bogdanov. Alexander Bogdanov è quello che giocava a scacchi con Lenin, ebbe una famosa diatriba all'interno della fazione bolscevica, eccetera, eccetera. Era sempre la stessa persona, e paradossalmente in tutta questa sua versatilità, questo eclettismo, aveva anche una sua profonda coerenza, che gli derivava dal fatto che al fondo era un filosofo, cioè la formazione alla fine è quella. Lui scrive questi tomoni, in realtà, di filosofia, empirio, monismo, tecnologia, perché tra le varie cose si inventa una metascienza, la scienza dell'organizzazione. Ma la cosa incredibile è che fa tutto questo, e non è l'unico, voglio dire, cioè erano vite spese così, fa tutto questo mentre ne succedono di tutti i colori, cioè mentre è in esilio, deve scappare, è in prigione, fa la fame, combatte nella prima guerra mondiale, non combatte, insomma è un medico, quindi comunque al fronte della prima guerra mondiale. Ed è incredibile che appunto tra queste, tutte queste cose che gli succedono, non solo trovi il tempo di scrivere saggi e su saggi di filosofia, ma soprattutto appunto di portare avanti una diatriba, una lunga diatriba con Lenin, che Lenin prese assolutamente sul serio, ragione Stefano, cioè non ci fu nessuna forma di snobismo o liquidatoria, si rispondevano. A un certo punto Lenin prende su, anche lui con tutto quello che aveva da fare, voglio dire, tanticchia da fare, prende su, va a Londra, dice: io non so niente di filosofia, aspetta un attimo. Entra alla British Library e passa lì alcune settimane aggiornandosi, cioè legge tutti i libri che gli servono per rispondere a Bogdanov. In effetti ne esce un libro che, insomma, diciamo, la critica leninista considera non dei suoi più brillanti, ecco, materialismo e periodomunismo, però però sta di fatto che lo ha scritto, quindi ha trovato il tempo di documentarsi, no? Citare le fonti, eccetera, scrivere un libro per rispondere. E uno dice: ma non c'avevi qualcos'altro da fare? Cioè non c'era un attimo delle emergenze un pochino più, cioè nel frattempo stavano organizzando delle rapine per finanziare il partito, cioè ne facevano veramente di tutti i colori. E no, era importante anche quello. Questa è la cosa che noi abbiamo trovato estremamente interessante e affascinante, cioè che Cazzarola scornarsi su questioni filosofiche poi significava che questo precipitava su tutto, su tutta l'attività politica. Poi certo, non mica erano delle anime belle, si scazzavano anche su cosa fare con i soldi delle rapine, per carità, ci fu, diciamo, l'annosa diatriba arrivò a toccare anche questi aspetti, appunto, perché, ma anche questo è un retroscena filosofico, perché che cosa finanzio? Non era una questione semplice di bottega, cioè che tipo di giornale finanzio, che tipo, per esempio Bogdanov vuole aprire le scuole per gli operai, no? E Lenin all'inizio è contrario, poi ci ripensa e apre lui una scuola per operai, quindi in qualche modo, come dire, assume anche delle posizioni bogdanoviane. Insomma, è una cosa che veramente ha una ricaduta generale sulle loro vite e di quelli che gli stanno attorno. E che ovviamente non è che trova una soluzione, non è che si risolve, no? Noi abbiamo raccontato la storia dal punto di vista di Bogdanov fondamentalmente, quindi sì, diceva Roberto, è più intimo come romanzo, no? Meno corale se vogliamo di altri, è davvero più lui al centro, lui, sua moglie anche senza dubbio, ma appunto nell'incontro con questa ragazza che lui incontra, che sembra uscita appunto dal suo romanzo, sembra che venga, almeno dichiara di venire dalla Stella Rossa, quindi forse è tutto vero, forse qualcuno sulla Stella Rossa ci è andato davvero, e questo, come dire, è l'incontro che in qualche modo innesca il processo del ricordo, del flashback, l'incontro avviene nel 1927, quindi poi si ricorda tutto i 20 anni precedenti fondamentalmente, ed è il modo per ripercorrere tutta quella storia, ma anche per mettere in crisi le convinzioni di Bogdanov, che poi è quello che ci interessava, mica volevamo dare ragione a uno o all'altro, a me ci affascinava la diatriba in sé, appunto, non è questione di, poi oggi come oggi non avrebbe neanche senso, mentre è molto importante, come dire, appunto la diatriba in sé, vedere qual era la portata della diatriba e il precipitato su il personaggio, perché poi alla fine facciamo i romanzieri, no? Quindi cioè, raccontiamo gente, esseri viventi, cioè devono essere credibili quelli, quindi le loro contraddizioni. E devo dire che questa cosa che citava Giuliano della cibernetica non è, cioè, deve molto a Bogdanov effettivamente la cibernetica, cioè uno dei non ho sentito. La cibernetica gli deve molto, e non solo, secondo alcuni anche i più risalenti piani quinquennali, per esempio dell'economia sovietica, devono qualcosa alla teoria dell'organizzazione di Bogdanov, che era la sua ossessione, l'organizzazione era il suo concetto chiave in qualche modo filosofico, e quindi alla fine è uno strano personaggio, uno strano, come dire, epurato ante litteram, fatto fuori ante litteram. In realtà non è stato fatto fuori, cioè appunto ha avuto una diatriba, ha perso ovviamente, perché Lenin politicamente era più scaltro di lui senza dubbio, però cioè, alla fine ha continuato a dire le sue cose, ha continuato a fare quello che voleva fare, e probabilmente addirittura alcune delle cose che aveva pensato hanno avuto una ricaduta, sono state recuperate in qualche modo successivamente. Quindi è davvero un po' di qua e un po' di là, è davvero un personaggio strano, ecco. E la lettura, insomma, di Stella Rossa, da questo punto di vista, ci ha fatto incontrare uno che, insomma, era un personaggio letterario, insomma, che chiedeva in qualche modo di essere raccontato. Allora, mi è stato raccontato da un vostro conoscente bissettiano romano che a un certo punto, quando per la prima volta, non mi ricordo onestamente se è Rigni o Riccione, cambia l'amministrazione dopo tanti anni, vanno a guardare il bilancio e dicono: ma scusate, ma voi avete dato 12 milioni a delle persone per simulare un atterraggio UFO, ed era una filiazione di Luther Wilson che aveva venduto questo evento, cioè un finto atterraggio UFO, non mi ricordo se arriva la luce. C'è stato tutto un filone di ufologia radicale dentro un pezzo della storia che vi sta alle spalle del Luther Wilson, e chiedo a Wuninguno questo, ma anche, e correggimi se sbaglio, un po' una delle spinte che una delle cose che vi ha spinto a scegliere questo tema, e che forse c'è ancora tra le righe, non lo so, ditecelo voi, è l'accinazione per Peter Colosimo, che era un altro che... E per Juan Posadas, che è un altro... Ok. Sì, dunque, i Men in Red erano una filiazione di Luther Blissett, che si occupava di ufologia da un punto di vista, diciamo così, marxista, e ce n'era anche un'altra che era l'Associazione degli Astronauti Autonomi. Quindi le scissioni non mancano mai. No, ma erano proprio, era poligenetica, erano nati indipendentemente uno dall'altro, e a un certo punto fecero la loro conferenza addirittura internazionale, gli astronauti autonomi, al Link di Bologna, in via Ferravanti, che all'epoca era là, e furono contestati dagli ufologi radicali che fecero un volantinaggio, perché gli astronauti autonomi dicevano che bisognava andare a realizzare il socialismo nello spazio, e dicevano che però ciascuno doveva costruire il proprio razzo, la propria astronave, perché autonomi, quindi c'è una particolare branca del marxismo, no? cioè non il piano eccetera, ma appunto le autonomie proliferanti eccetera, ci costruiamo le nostre astronave, andiamo a fare delle comunità appunto comunistiche, a fare delle comuni nello spazio. Invece gli ufologi radicali dicevano: no, saranno gli extraterrestri a portare qua il socialismo. Quindi c'era un movimento esoplanetario e un movimento endoplanetario. Noi nei nostri anni formativi eravamo in mezzo a queste due cose. Poi vabbè, tra l'altro volevo dire che oggi a Bologna c'è stato il 33esimo convegno ufologico nazionale, e sappiamo, c'è un nostro compagno Mariano Tomatis che è andato là e credo abbia anche invitato alcuni ufologi a venire stasera, quindi potrebbero anche essere tra il pubblico quelli che hanno fatto il convegno di oggi, no? E c'è questo filone che ogni tanto, questo filone classico che riemerge, e non nego che effettivamente questo romanzo Stella Rossa è nato da un brainstorming durante il quale a un certo punto noi avevamo cominciato a scrivere un altro romanzo, cioè stavamo scalettando un altro romanzo, che era ispirato a Peter Colosimo. Per chi è troppo giovane per ricordarlo e per conoscerlo, Peter Colosimo è stato l'inauguratore del filone degli astronauti preistorici, di quelli che dicono che la civiltà, le civiltà umane hanno un'origine extraterrestre, nascono da un primo contatto che è avvenuto in epoca antichissima, antediluviana, e così, e vanno a cercare nell'archeologia le prove, fanno un'interpretazione piuttosto capziosa di pittogrammi nelle caverne, cose di questo tipo, per far vedere, guarda, quello lì è un astronauta, questa qui è un'astronave, e così. I libri di Peter Colosimo negli anni 70 avevano un successo incredibile, vendevano centinaia di migliaia di copie, però il punto è che Peter Colosimo era un comunista. Peter Colosimo era uno stalinista, diciamo così. Allora, intanto lui era stato coscritto nella Wehrmacht, perché era di Bolzano. Quando Bolzano viene annessa di fatto al Terzo Reich, viene praticamente annesso nella Wehrmacht, poi diserta, si unisce ai partigiani in Boemia, è con l'Armata Rossa quando entra in Germania, poi diventa il direttore di Radio Capodistria, quando Tito rompe con Stalin lui viene cacciato via perché stalinista, diventa l'inviato dell'unità, non in Unione Sovietica, ma al programma spaziale sovietico. Ed è il primo a dare la notizia, se non ricordo male, della prima cagnolina mandata in orbita nel programma spaziale sovietico. Quindi, e poi diventa uno scrittore di fantascienza con lo pseudonimo Omega Jim, cioè dei romanzi non... insomma, altro che Bordano. Però poi trova il suo filone d'oro praticamente in questi finti saggi, che sono dei romanzi in realtà, perché sono una cosa immaginifica, però venivano interpretati come saggi. Questa figura lì ci ha sempre affascinato, ne abbiamo scritto anche su Giap, ci piaceva molto. Prima o poi, insomma, ritorna. Abbiamo già cominciato a scrivere quello lì, però poi imbattendoci in Bogdanov, che prima era solo un fantasma, era solo quello che veniva nominato ogni due pagine in Materialismo ed Empiriocriticismo, ma leggendo Materialismo ed Empiriocriticismo di Lenin non si riusciva a ricostruire bene quale fosse il pensiero di Bogdanov, no? Perché quelli che cita tra virgolette Lenin sono, come si dice in francese, dei morceaux choisis, dei pezzi scelti apposta per poi poterli smontare, no? Quindi la grande sorpresa di scoprire Bogdanov, Stella Rossa, tutto il suo mondo, appunto prima era un fantasma, a un certo punto ci è apparso a tutto tondo, e quindi abbiamo, diciamo, il romanzo ufologo radicale, l'abbiamo rimesso nel cassetto, dico solo che si svolgerebbe a Roma nei due mesi del sequestro Moro, però non dico altro perché magari lo scriviamo, perché intanto l'abbiamo messo nel cassetto ma magari lo tiriamo fuori. Prima dicevo un altro personaggio che appunto che ci ha affascinato, che ha nutrito la nostra immaginazione durante quel lungo brainstorming, è Juan Posadas. Juan Posadas è un trotskista argentino che a un certo punto, a parte è fondatore di una delle tante quarte internazionali, no? Perché la quarta internazionale è la potenza di se stessa, la quarta, ce ne sono tantissime, no? E una era fondata da Posadas. Posadas a un certo punto negli anni 60 ha cominciato a scrivere di dischi volanti, di UFO, con un approccio appunto super scientista, e appunto lui diceva, se questi, la taglio molto con l'accento, diceva, se questi hanno le tecnologie per viaggiare attraverso le galassie e arrivare fino qua, per forza devono avere una civiltà superiore, quindi devono avere un'economia pianificata, devono avere, insomma, il socialismo e tutto quanto, no? E questo pezzo si chiama UFO Rivoluzione. Tra l'altro credo che sia in sala il traduttore in inglese di quel saggio, che è David Broder di Jacobin, che ha tradotto UFO Revolution in inglese. Ecco, quindi per dire di quanto è piccolo il mondo, oggi gli ho chiesto, ma sei tu il David Broder che ha tradotto il pezzo di Posadas su UFO Rivoluzione? Quando mi ha detto sì, le due considerazioni sono state, vabbè, il mondo è piccolo, e l'altro, anche tu sei uno strambo come noi. Sembra molto quadrato, no? Quelli di Jacobin, però poi vai a grattare e sono degli ufologi anche loro. Ogni volta che dice brainstorming, a me viene in mente una scena in cui due di loro discutevano delle, così, era nato per caso, delle analogie tra la progressive, una certa scena liscio romagnola, ah, sì, certo, della Toulouse. ed è andata avanti per due ore, cioè a un certo punto noi stavamo qua per il pubblico ed era una, cioè, era uscita una storia, no? Aspetta, la figura, sì, sì, anche su quello. E secondo Federico, Casadei, era secondo Casadei. Federico, qui c'è uno spettro che si chiareggia su questo romanzo e che compare a un certo punto col suo nome di battaglia, che è Stalin. Compare prima, i vent'anni che cambiano il mondo sono i 10 anni prima e i 10 anni dopo la rivoluzione russa, e Stalin compare prima tra i protagonisti della rapina di cui si parlava, che è un, certo, un grande colpo che dà una buona botta alle finanze del partito socialdemocratico, come si chiamava? Operaio. E compare ovviamente dopo, compare alla fine, ovviamente non spoilerò nulla, però Stalin non aleggia per tutta, quindi dobbiamo dire qualcosa anche su di lui, su questa figura che avete tratteggiato nei suoi elementi inquietanti, ma che non compare mai direttamente. Sì, quando si parla di una maschera. Non facciamo spoiler. Beh, il prologo. Beh, vabbè, anche se il prologo uno ha il diritto di leggersi il prologo senza sapere come va a finire il prologo. Senza il minimo, insomma. Ti raccontano. Allora, in realtà, dico, è stata una scelta abbastanza spontanea quella di tenere la figura di Stalin sullo sfondo, per due motivi. Il primo è che era veramente terribilmente iconico, cioè, eccolo, qui è lui da giovane. Bellissimo uomo, sì. Però molto basso. Sì. Vabbè, comunque, lì ancora aveva appunto il nome di battaglia di Koba, sì, esatto, ed era socio di Kamo, esatto. Qualcuno mi ha contestato il fatto che ci si confonde tra Koba e Kamo, ma ci possiamo fare poco, si chiamavano così, venivano dalla stessa località, insomma, fatti loro, ecco. E appunto sono, diciamo, due tra gli ideatori di questa grande rapina, ideatori esecutori di questa grande rapina a Tbilisi o Tiflis, come si chiamava allora, nel 1907. Però non ci interessava, come dire, metterlo al centro, come raramente, insomma, poi ci interessa mettere al centro i super big. Se ci pensi, anche Lenin è sulla scena solo attraverso i ricordi di Bogdano, no, a parte la scena degli scacchi, avete visto prima passare la celebre foto della partita a scacchi a Capri contro Bogdano e Lenin, però non è mai, diciamo, un attore che conquista la scena. Questo perché appunto Bogdano rimane sempre più defilato e quindi alla fine non riuscirà neanche a scazzarsi con Stalin, perché è già in qualche modo a latere, a parte. E in un certo senso questo gli consente quasi di mantenere addirittura dei privilegi, tra virgolette, si capisce, cioè appunto gestire un istituto trasfusionale senza essere iscritto al partito, ad esempio, ma sicuramente rimane fuori, ecco, dal grande regolamento di conti che è in corso nel 1927, un po' l'anno spartiacque, appunto, in cui comincia il regolamento di conti peso, insomma. E lui è assolutamente fuori dai giochi, ecco, questo che vedete è il socio, ecco, sono loro due. E quindi devo dire che non ci siamo proprio posti il problema, avevo deciso che lui sarebbe stato sullo sfondo, ecco. Poi è chiaro che è una presenza che è vero, aleggia, si capisce, viene nominato, però non è al centro delle preoccupazioni, ecco, credo che sarebbe stato forse quasi sciocco, ecco, fornire questo tipo di lettura, perché veramente le questioni sul piatto erano tante, variegate, e anche gli scazzi interpersonali erano tanti e variegati, insomma. Per esempio, come dire, Bogdano sembra avere molto, si rintuzza molto di più a vicenda con Lunacharsky, che erano stati molto, molto vicini, no? Erano stati assieme a Capri, erano fondato la scuola per operai assieme, eccetera. Poi Lunacharsky era stato un pochino più accondiscendente rispetto a Lenin, eccetera, insomma, era un pochino più rientrato, alla fine aveva anche avuto degli incarichi di governo, e quindi tra loro due amici si può immaginare quanto ci fossero molte più scintille, e ci interessava delle due mettere in scena queste, appunto, piuttosto che dove c'era sangue, no? Carne viva, piuttosto che un ipotizzare chissà quale rapporto anche a distanza con Stalin. Invece, insomma, Bogdanov sembra non avere. Tra l'altro, lui, quelli che sono considerati i padri delle rivoluzioni, in realtà nei nostri romanzi non li ha mai mostrati. Lutero non compare in Q, George Washington non compare in Manituana, Robespierre compare solo visto da lontano nell'armata dei sonnambuli, dalle donne che stanno tra il pubblico della convenzione, e quindi anche Lenin in realtà. In realtà Lenin è quello che compare più di tutti, cioè nel senso che c'è la scena degli scacchi, però appunto dentro i ricordi di Bogdanov. E c'è una... C'è un pezzettino bolognese in questa storia. È grande. Sì, mi sembra che l'abbiamo fatta apposta, invece... No. Potevamo anche non metterlo, invece se l'abbiamo messo, ma è storia. Dopo, diciamo, la chiusura della scuola di Capri, Bogdanov e soci provano a riaprire una scuola proprio qua, in questa città. Dura pochi mesi, però non c'è una targa, non c'è niente, non abbiamo trovato tracce. Eppure è una scuola in cui sono venuti a insegnare Trotsky, Alessandra Kollontai, Lunacharsky, appunto, Bogdanov. Insomma, è passato un bel pezzo, ecco, di rivoluzione russa, di quella che sarebbe stata poi la seconda rivoluzione russa, da Bologna, tra il 1910 e 11, e si appoggiavano ai sociali, società socialiste sostanzialmente, facevano un giornale, quindi si appoggiavano alla tipografia, stavano tra via Marsala e via Oberdan, praticamente, anche se all'epoca avevano dei nomi diversi, via Cavaliera mi sembra che si chiamasse all'epoca, dove appunto c'era la sede di questa società di mutuo soccorso. Credo che tra le foto qui scorra a un certo punto, si dà la bandiera della società, e quindi sì, c'è anche una piccola parte bolognese. Tra l'altro, forse varrebbe anche la pena provare a fare delle ricerche, questo lo dico agli eventuali storici in sala, quindi di professione, fare delle ricerche un pochino più approfondite su questo passaggio, appunto, di questo fior fior di rivoluzionari da questa città. E mettere la targa. E mettere la targa. Sì, mettere la targa. C'è a Londra con la targa di Lenin. A Londra c'è la targa di Lenin, cioè quindi... Non sarebbe strano vederla in Italia, cioè, anche se adesso forse non è il momento giusto, magari. Se avete delle domande, delle cose da dire, non lesinate, non siate timorosi, non siate timidi. Questa è una storia che affonda anche la prima guerra mondiale, che è affrontata nell'invisibile ovunque. A un certo punto è uno dei pezzi che mi ha più colpito, si dice esattamente questo: questa rivoluzione, la rivoluzione russa non viene liquidata, come avete capito, magari viene guardata allo sguardo obliquo, come nello stile che hanno costruito nel corso degli altri romanzi, ma viene... se sarà uno sguardo molto complesso e molto stratificato, e però a un certo punto si dice questa roba qui è nata anche dalle trincee, dai massacri della guerra che l'ha preceduta, ed è un miracolo che sia nata, che sia durata già più della guerra contro gli imperi e della guerra contro gli altri, che sia qui. Questo è uno dei punti in cui uno capisce che è veramente una lettura superficiale pensare che siamo 90 tesi pro contro Lenin o pro contro la rivoluzione. È una cosa molto più, molto diversa. La grandezza della rivoluzione russa di aver sopravvissuto a quegli eventi epocali, e forse anche direi di essere sopravvissuto a suo malgrado al fatto che non fossero scattate altre rivoluzioni in altri paesi, come era uno degli auspici, sta lì, nel mondo delle questioni, perché uno Diego Pusano impallidirebbe, perché se c'è una cosa che colpisce di queste persone è appunto la capacità di essere cosmopoliti, di spostarsi tra, vado a Londra a studiare, poi vado a Capri da Gorky, poi apro una scuola a Bologna. Quindi uno sguardo veramente globale che per l'epoca è impressionante, se pensate solo alla difficoltà degli spostamenti oggi, a tutto il resto. E quindi c'è, cioè, tutto questo, i grandi, si raccontano storie di persone, i grandi eventi sono sullo sfondo, e però c'è la grandezza della rivoluzione, no? Senza retorica, lo dico, ma veramente. Solo una cosa. Nel nostro romanzo, in effetti, l'approccio di Bogdanov è contraddittorio, perché da un lato vede la guerra come una tara che la rivoluzione si porta dietro, cioè una rivoluzione che è stata partorita da una guerra a un problema, insomma, no? E quindi lui insiste molto su questo, no? Sul fatto che non può andare a finire bene perché c'è questo problema qua ad origine. Dall'altro, però, mano a mano che le cose vanno avanti, si rende anche conto che è solo in questo nuovo contesto che è possibile aprire uno scenario, anche per lui, anche per quelle che sono le sue idee. Beh, lui fonda alla fine il movimento, il Prolet Cult, il movimento per una cultura proletaria, perché si è aperto questo spazio, perché si è aperto questo nuovo scenario. Quindi lui in qualche modo rimane dentro la propria contraddizione, non riesce nemmeno lui a risolverla, ecco. Ma il fascino del personaggio è questo, se no, come dici tu, sarebbe stato quello romanzo atteso. Però volevo dire un'altra cosa che forse abbiamo tralasciato, perché sembra che Stella Rossa sia stata, come dire, una puntata, così, una fiammata. In realtà, anni dopo, Bogdanov scrive il prequel di Stella Rossa, che si intitola Ingegner Manny. E i marziani hanno sempre dei nomi strani, così, Netti, Manny, c'è uno che si chiama Letta. Letta, chissà perché muore. Muore subito. Grande. L'ingegner Manny è il prequel, diciamo. Stai sereno. Sono nomi che non c'entra niente con russo. Sono italianeggianti, esatto. Anzi, perché sì, da Capri, sì, che li hanno. Appunto, volevo passare la palla al collettivo Fugliano, perché in realtà, cioè, quando lui scrive il prequel, aggiunge alla fine, insomma, nella seconda edizione, se non sbaglio, del 24, un piccolo poemetto, sono dopo due pagine. Incompiuto, che poi mi auspico venga tradotto, ma appunto spero che ci darete le buone notizie, perché in realtà l'idea di questo romanzo ci è venuta da lì. Cioè, questa è la storia di un marziano che arriva, si schianta con l'astronave e rimane bloccato sulla Terra, secondo il sentito di un marziano bloccato sulla Terra, e che decide alla fine di rimanere lì e aiutare appunto i terrestri a edificare il socialismo. Quindi era l'ipotesi degli astronauti, no, degli ufologi radicali, questa. Quindi, insomma, diteci qualcosa su questo, perché appunto in realtà la produzione di Bogdano è un pochino più ampia, e la storia della Stella Rossa è stata un pochino più indagata. Sì, le tue attese, insomma, saranno rispettate, perché il poemetto lo includeremo alla nuova traduzione di Ingegner Manny, che arriverà a marzo. Quindi probabilmente saremo ancora in giro con le presentazioni e ci porteremo dietro anche Manny. Bogdanov scrive Ingegner Manny nel 1911, okay, esce nel 12. E di questo Lenin dice: è con un linguaggio idealistico talmente involuto che non lo capirebbero nemmeno i redattori della Pravda. C'è, cioè, tipo un Toninelli, una cosa del genere, cioè lui probabilmente li considerava a quel livello lì. Questo era il parere di Lenin su Ingegner Manny, quindi vuol dire che lui continuava a essere lì, leggeva tutto. Esatto, leggeva quello che faceva Bogdanov, lui seguiva. Tra l'altro è una cosa che è successa anche con il Prolet Cult, ovviamente. Sì, con Mayakovsky. Perché in effetti subito Lenin si oppone all'idea del Prolet Cult, vuole subordinarlo, poi tenta di metterci le mani sopra. Quando vede che la cosa è troppo grossa, si chiude, no? Quindi sembra sempre che Bardano a un certo punto sia sempre uno scatto avanti a Lenin. Lenin è quasi sempre costretto a rispondere, come è stato con i libri di filosofia. Tra l'altro, si pensate due che si rispondevano con i libri di filosofia. Cioè adesso ci si risponde con i post su Facebook. Cioè, allora, esatto, un commento, tra l'altro, infamante. Loro no, con i libri di filosofia studiati, scritti. Sì, e appunto includeremo anche questo poemetto scritto, se non sbaglio, nel 1924, mi sembra, quindi 4 anni della morte di Bardano. Questa è la, diciamo, tutta l'opera fiction, diremmo, di Bardano, cioè Stella Rossa, prequel di Ingegner Meini, poemetto incompiuto. Questo poi lui si è dato, come sappiamo, alla filosofia e si è dato bene con la tetralogia che... Tra l'altro non so se nessuno abbia mai affrontato Bardanov a livello filosofico. Se qualcuno che ha fatto filosofia, magari qua dentro, filosofia, no, ridete, perché tanto nessuno... Secondo me nessuno, prima che uscisse il vostro romanzo in Italia, almeno delle generazioni, sapeva chi era Bardanov. Secondo me avete anche questo pregio, cioè nel senso, manco noi prima di ma appunto per questo, no, cioè riportare un po' un personaggio passo avanti. Sì, sì. Una curiosità, non è un qualcosa da biasimare, perché persino tante mie amiche russe, bielorusse, non conoscono chi sia Bardano. Quando io parlo delle traduzioni che facciamo e dico stiamo traducendo Bardano, chi è? Vabbè, vieni a spiegare chi è. Questo è quello che si pensa adesso in Russia di Bardanov. L'unica edizione di Stella Rossa disponibile sul mercato russo è questa, cioè Mignon, ok? E c'è solo Stella Rossa, Ingegner Meini non è più in commercio, cioè da anni. C'è stato un ritorno di fiamma per Bardanov ai tempi di Gorbaciov, dove vabbè, si andava a ripescare quello che era caduto nel dimenticatoio, ma diciamo post Unione Sovietica, dimenticato. Sì, anche io ho trovato questa cosa nella perestroica, ho avuto un momento di... hanno ristampato Stella Rossa con il pezzo, penso col pezzo su Lenin. Sì, 400.000 copie. 400.000 copie. 400.000 copie. Domande? C'è qualcuno che era al convegno ufologico? Uno sì. Ok, Maria, una cosa che possiamo dire è che io, Federico, Giovanni ci siamo interfacciati per rendere quanto più omogenei possibili Stella Rossa e Brolle Kult. Ci siamo confrontati sulla traduzione di alcuni termini. Ad esempio, noi abbiamo adottato Eteronave, che era la loro traduzione per queste astronavi inventate da Bardanov, per cui lui usa un grecismo, Eteronie, e noi avevamo tenuto l'originale, invece poi abbiamo adottato la loro idea perché ci sembrava anche più facile per un lettore italiano, sinceramente suonava anche molto meglio. Noi invece li abbiamo sgamati su altre materie. Se vuoi dire qualcosa. Sì, avendolo letto in inglese, non conoscendo il russo, il traduttore inglese aveva tradotto il... Nega materia. Sì, materia minus, mi sembra. Antimateria. Antimateria, sì. E quindi noi eravamo partiti tranquilli parlando di antimateria. Poi, con una ricerca molto rapida, ma per fortuna ci è venuto in mente, ci siamo accorti che era assolutamente un anacronismo, che è un termine entrato successivamente nel lessico. Quindi ci siamo rivolti a loro, ci siamo interfacciati appunto per decidere una traduzione comune. In questo caso praticamente abbiamo lasciato letterale, esatto. Che era la cosa minore, perché chiaramente, cioè, si parla di teorie, no? Astrofisiche, eccetera, oltre ad essere una materia che non maneggiamo. In questo caso lui ne parla con una ragazzina che è convinta di venire dalla Stella Rossa e che stranamente, tra l'altro, ne capisce di fisica, di astronavi, eccetera, eccetera. Quindi questo rientra anche, diciamo, nel discorso dell'interpretazione del romanzo, insomma, se uno vuole credere che viene davvero da, dalla Stella Rossa, da un altro pianeta, i conti possono anche tornare, ecco, siete liberissimi di farlo. Noi non l'abbiamo deciso, ecco, l'abbiamo scritto senza porci il problema, l'unico problema che ci siamo posti appunto è non ci fossero anacronismi, che le parole fossero comprensibili e che le due versioni non fossero, diciamo, in contraddizione una con l'altra, ecco, quindi uno potesse scegliersi davvero l'interpretazione che preferisce. Bene, direi che l'ossigeno, una delle curiosità, l'ossigeno in sala è finito, solo delle attenzione, abbiamo una domanda. Il microfono anche per lo stream. Arriva. Grazie. Ciao, volevo sapere se il personaggio di Leonid è inventato. Volevo sapere se il personaggio di Leonid è inventato o meno e da dove avete preso spunto. Dunque, il personaggio di Leonid di Prolet Cult o il personaggio di Leonid di Stella Rossa? Perché ormai qui siamo un po' sbagliati. No, infatti capiamo niente anche noi. Allora, il personaggio di Leonid di Stella Rossa, adesso chiedo conferma a Stefano, non mi sembra che sia realistico, cioè è finzionale. Okay. Leonid è il protagonista, è finzionale. Ed è un rivoluzionario russo del 1905 che dopo il fallimento della rivoluzione viene appunto preso dai marziani e portato su. Ma là non si trova bene, poi prima hai accennato al fatto che a un certo punto sbrocca, quindi ma non vi voglio togliere il gusto nemmeno di leggere Stella Rossa perché merita. Noi immaginandoci, diciamo, che questa storia potesse essere realistica, potesse essere vera, chiaramente abbiamo scelto lo stesso nome, dato lo stesso nome, abbiamo immaginato che questo Leonid fosse effettivamente un personaggio che Bogdanov ha incontrato e che gli ha detto: guarda, io ho fatto un viaggio interplanetario, me lo sono sognato, l'ho fatto davvero, boh, non importa, intanto te lo racconto. E quindi in buona sostanza l'idea per il romanzo gliel'avrebbe data questa persona, che però è assolutamente funzionale, ecco. È ricalcato in parte su alcune figure di studenti operai che effettivamente frequentavano la scuola di Capri, sì, però lui non c'era, ecco, che noi sappiamo. Noi invece, ovvero lui, aveva la sua teoria sul personaggio di Lenny, perché va bene. Grande ipotesi. Sì, ipotesi, che Lenny fosse un anagramma di Lenny, pensava. Sì. No, è una mia teoria, nel senso che... leggendo 2000 volte Stella Rossa anche prima di tradurlo, a parte che Lenny è effettivamente sì, lo è. Ho pensato che Bogdanov l'avesse anagrammato e l'avesse spedito volontariamente su Marte a vedere come si sarebbe realizzata la cosa e quali pericoli. In quel caso non sarebbe il vecchio della montagna. Esatto, in quel caso perché il vecchio della montagna è il primo che loro scartano. Esatto, perché è quello che è inflessibile. Però in una seconda versione questo è tolto. Vero. Però ovviamente questa è una mia ipotesi. È una teoria del complotto. Perché quelli che loro scartano nella parte di Stella Rossa tagliata sono Lenin, Gorky e Krasin. Per vari motivi non sono loro, esatto, quelli che possono essere portati, esatto, su Marte. Esatto, perché Lenny fa la domanda a Manny: ma sei venuto a vedere, perché proprio io? Perché proprio e lui io? Gli dice: perché abbiamo osservato la vostra sezione, abbiamo visto che c'erano questi tre, ma questo non vanno bene. Poi ovviamente c'è la teoria che credo che sia la più diffusa, che Leonid sia Bogdanov stesso. Sì, cioè, ma quella è la sua alter ego. Vabbè, esatto. Ogni protagonista di romanzo è anche l'alter ego. Esatto, sono tanti dettagli autobiografici. Vabbè, su questo che Lenny sia Bogdanov ci sono secondo me tanti riferimenti, anche il momento, cioè tanti episodi sentimentali, la sua storia con Netty, con Enno. Anche con Anna Nikolaevna, cominciando da quello proprio, sono come se si ripresentasse la sua storia personale, il suo matrimonio, con la sua, il suo rapporto poligamo con le due donne della sua vita. Appunto su questo momento della poligamia e della monogamia volevo parlarne un pochettino. Allora, era un momento molto importante del periodo pre-rivoluzione. È anche un momento molto criticato, non so se qualcuno ha mai sentito parlare dell'amore libero, che negli anni 20 era molto diffuso. E su questo Kalantai, un personaggio molto noto nell'ambito della rivoluzione, ha scritto un articolo anche noto che si chiama Tarogu Krilatamuersu, cioè via all'amore, all'eros alato, e espone la sua teoria sull'amore, sulla monogamia e poligamia. E lì all'inizio lei definisce i due termini, eros alato e eros senza ali. L'eros senza ali sarebbe appunto l'amore libero, cioè l'amore carnale, il rapporto sessuale dove non c'entra assolutamente il sentimento, e secondo l'opinione di Kalantai questo amore è quello che mette dei freni all'educazione socialista, è quello che indebolisce la mente dell'operaio, della classe operaia, dei lavoratori, e non permette crescere, non gli permette di lasciare indietro alle spalle il mondo borghese, e cioè liberarsi dei residui negativi e diventare dei veri socialisti. Quello invece che lei cerca di presentare sotto una luce molto positiva è l'eros alato, cioè l'eros, l'amore, che sì è rapporto carnale, però che sottintende anche un altro sentimento, che può essere cameratismo, può essere solidarness, cioè solidarietà, può essere un sentimento materno, può essere una collaborazione, può essere tutte le sfaccettature dell'amore, che però non diventa più una questione individuale, personale, ma diventa una questione della collettività, in quanto questo amore contribuisce a tutta la società socialista a sviluppare. In questo senso, cosa fa? Kalantai dice che finalmente riusciremo ad ottenere vittoria non solo con il fuoco, con le armi, ma anche nell'ambito della cultura, nell'ambito culturale. Cioè lei usa in questo senso cioè all'amore un significato più intellettuale, solleva, e dice che appunto nel periodo pre-rivoluzione la gente che si era dedicata alla rivoluzione anima e corpo non aveva tempo, possibilità di amare come dice lei, cioè impiegandoci sentimento, impiegandoci intelletto, e amava con l'eros senza ali, cioè era un rapporto carnale, ed era l'amore libero che in seguito anche Lenin critica. Recentemente ho letto anche un articolo su Modern Guardia, che era un giornale dell'epoca molto in voga, dove si riportano anche le parole di Lenin come critica l'amore libero, e parla anche di un altro fenomeno dell'epoca pre-rivoluzione. Dice che allora era diffuso il termine l'amore come un bicchiere d'acqua. E cosa sarebbe questo bicchiere d'acqua? L'intelligenza di questo periodo amava come un sorso d'acqua, cioè con la leggerezza, con questa cosa molto semplice, di come se bevesse un bicchiere d'acqua, appunto, si amava e basta. E qui Bogdanov si concentra un bel po' su Stella Rossa, c'è un intrigo di relazione fra un personaggio e l'altro che è bello consistente, insomma. Poi anche voi ne avete studiato abbastanza questa cosa. Sulla Stella Rossa, Leonid, il suo protagonista, ha un paio di storie importanti, diciamo, con due marziani. Subito non si sa se sono Sì, ma poi sono tutti i problemi appunto del fatto che lui distinguere maschi e femmine, esatto, allora, non distinguere maschi e femmine, perché i marziani non si distinguono molto, cioè, i due generi sono un po' indistinti. Poi insomma ha problemi di gelosia, deve superare la gelosia, insomma c'è uno sclero. Poi c'è uno sclero, è complessa la sua vita su Marte, anche dal punto di vista sentimentale, e molto probabilmente è vero, come diceva Sophie, probabilmente rispecchia anche le grandi relazioni della sua vita che noi abbiamo cercato in prole tutti in parte di raccontare. C'è anche questo, effettivamente, nel romanzo non poteva non esserci. C'è appunto il rapporto con sua moglie, con la compagna di una vita, la donna da cui ebbe un figlio, eccetera. Quindi anche la stessa Kollontai è effettivamente un personaggio che compare con le sue, insomma, le sue idee, appunto, e quindi il tema famiglia, matrimonio, eccetera, che effettivamente investì tutti questi, noi ce l'abbiamo messo dentro. Ovviamente, come dire, diciamo, è un romanzo che si può approcciare da tanti punti di vista, da tanti punti di ingresso, insomma. Quindi uno, se vogliamo, è anche questo, e non è irrilevante nella misura in cui alla fine Giordano tira un po' le somme di tutto quello che ha pensato nella sua vita e di tutto quello che poi ha fatto, ecco, nel rapporto con tra pensiero, teoria e azione. C'è una domanda del compagno Luca Casarotti. Luca, hai già letto il libro? Sì. Allora, non spoiler, però ti anticipo con una domanda, se vuoi puoi rispondere e poi dopo fai la tua domanda, e ti chiedo di dirci due parole sul concerto che c'è all'inizio. Allora, sì, volevo dire una cosa delle cose che volevo dire era questa, cioè ho letto in Proletput una delle più belle descrizioni di esecuzioni musicali che mi sia capitato di leggere di recente, e non lo dico per piaggeria, visto che loro li conosco oramai da un po' e non ho bisogno di captazioni e benevolenze, e la ragione per cui mi è piaciuta questa sequenza è che è molto descrittiva, cioè racconta l'esecuzione nel suo svolgersi, mentre molto spesso noi nella critica musicale leggiamo paginate di impressioni dei critici soggettivissime, delle quali ci frega molto poco a volte. Ci sono i vari critici che si credono epigoni di Lester Banks, che riempiono pagine e pagine di impressioni soggettive, e molto spesso quando lui si legge, ma che cazzo me ne frega di quello che provi tu, racconta la musica nel suo svolgersi. L'oggettività di questa descrizione, che poi ovviamente non rinuncia a trovare la ragione e la ratio che sta dietro all'esecuzione, secondo me è riuscitissima, davvero. Poi, un'altra cosa che volevo dire, tra l'altro fa la sua comparsa l'eterofono nel romanzo, che non è nient'altro che il theremin, è impressionante perché si dà una lettura filosofica della costruzione del theremin. L'altra cosa che volevo dire è che nelle storie del marxismo scritte dai filosofi, molto spesso si parteggia per Giordano. Il complimento, l'apprezzamento più benevolo che ho letto rispetto a materialismo ed empirico criticismo è opera raffazzonata. Quindi, ecco, i filosofi tendono a un po' a privilegiare la coerenza di pensiero di Giordano. E un po' secondo me il vostro libro è anche una delle cose che è il vostro libro, è anche una piccola, un piccolo manuale di storia del marxismo russo, se possiamo dire così. E, a proposito di questo, quindi voi appunto date conto della diatriba tra Lenin e Bogdanov, come dicevate prima, senza che vi interessi prendere una posizione, mentre molto spesso appunto noi nelle storie del marxismo leggiamo delle interpretazioni che propendono o per Lenin o per Bogdanov. E una cosa che mi ha affascinato molto, se volete parlare un po', è il discorso che voi introducete a un certo punto sul ruolo dell'arte e della cultura, sul quale Lenin e Bogdanov si dividevano, perché si scontravano un po' l'esigenza di, se ho ben interpretato, conservare le vestigia dell'arte precedente alla rivoluzione e dall'altro la pulsione a alzerare tutto e a pensare un'arte che quasi eliminasse l'io e il soggetto nella creazione artistica. Vi va di dire due parole su questo? Oddio, due parole e una. Cercherò di essere sintetico, il più possibile sintetico. Non faccio fatica a credere che i filosofi tifino per i filosofi, ovviamente, nella diatriba, per spirito di corpo. Comunque, in buona sostanza, se ridotta all'osso, effettivamente la discussione tra i due fu proprio di questo tipo. Il rapporto tra cultura e struttura, insomma, tra cultura e realtà materiale, in buona sostanza. Lenin metteva in secondo piano questa questione, nel senso che l'emergenza, l'urgenza era quella ovviamente di cambiare i rapporti di produzione, di cambiare le strutture sociali, i rapporti sociali, le trasformazioni culturali in qualche modo sarebbero venute di conseguenza. Bogdanov ribaltava invece il problema e diceva: sì, d'accordo, ma se non ci preoccupiamo anche di cambiare appunto la cultura, l'io, la cultura borghese, eccetera, faremo fatica in realtà anche in una società in cui il sistema di produzione è cambiato, faremo molta fatica a rivoluzionarci davvero. Ecco, in buona sostanza, adesso la sto semplificando moltissimo, ma il succo è questo. E perché a monte in realtà si può risalire ancora, c'è una questione filosofica, prima ancora che politica, perché avevano due visioni epistemologiche diverse. In buona sostanza Bogdanov cercava di far concordare il marxismo e il materialismo dialettico con le teorie, diciamo, scientifiche un po' più recenti. Si potrebbero citare, diciamo, quelli che lui citava direttamente, che erano Avenarius e Mach, ma anche Einstein in un certo senso. Cioè, in sostanza lui diceva, la materia non è solo materia, è materia e le mie sensazioni, no? E il modo in cui io la esperisco, non posso scindere queste due cose. E Lenin gli diceva: quindi non credi a una materia aliena da te, quindi sei un idealista fondamentalmente, non credi all'oggettività della materia, quindi in buona sostanza sei un idealista. Era un po' un dialogo tra sordi, evidentemente, però è anche una delle grandi diatribe filosofiche della storia occidentale, quindi non è neanche, come dire, nulla di nuovo da un certo punto di vista, era solo declinata all'interno, diciamo, della teoria marxista. Per Lenin questo non era marxismo, non si riusciva a far coincidere, ecco, quell'idea lì col marxismo, e Bogdanov invece sì. Quindi, problema epistemologico che aveva una ripercussione appunto su cosa viene prima, la cultura o i rapporti di produzione, e quindi poi anche il precipitato ultimo: cosa facciamo con i soldi delle rapine? Cioè, cosa finanziamo, appunto? Cioè, finanziamo il partito, la costituzione di un partito di rivoluzionari di professione, di militanti full time, eccetera, oppure facciamo in modo che il proletariato di educare il proletariato e facciamo le scuole operaie e via dicendo. Quindi, insomma, era lunga la filiera, ecco. Si partiva dall'epistemologia e si arrivava alle questioni spicciole anche. Questa fu la storia. E come dicevo, non ci fu una soluzione, cioè si fa anche fatica, appunto, al di là che ce ne possa fregare qualcosa e dà ragione a uno all'altro, cioè si fa anche fatica a pensare che in qualche modo entrambe queste due posizioni non abbiano invece avuto un loro proseguimento, diciamo, una prosecuzione successivamente. Faccio per dire, cioè, quando in Cina Mao Zedong si mette a parlare di rivoluzione culturale, dalla Russia partono le accuse di bogdanovismo, per dire, no? Cioè, ho detto che Bogdanov però allo stesso tempo può essere considerato l'ispiratore dei piani quinquennali sovietici della Russia stalinista. Cioè, voglio dire, è in realtà come se questa diatriba in qualche modo non fosse morta con loro, ecco, ma sia una cosa che probabilmente partiva da prima, forse addirittura dalla grande contrapposizione tra realisti e nominalisti del Medioevo, ed è proseguita poi anche dentro la storia del marxismo, perché in un certo senso noi stessi, le ultime generazioni, insomma, non hanno esulato da questo tipo di discorso, se non sbaglio, insomma, siamo ancora qui a parlarne, no? Magari in termini diversi da quelli che usavano loro, ovviamente, e forse non ci chiudiamo per settimane dentro la British Library, però insomma, da un certo punto di vista è ancora una contrapposizione fertile questa, dialetticamente parlando. Sapevo, mi stimola. Okay. Vai Mauro. Scusate, va Luca, mi stimola, poi facciamo un'intervento, assemblea pavese. Poi facciamo un po' di discussione. Comunque, no, a parte che voglio difendere l'onore di materialismo di empirio criticismo, che secondo me è un altro libro, però è interessante perché cioè, in qualche modo diciamo la rivoluzione è un atto fantascientifico, nel senso che c'è un elemento di immaginazione applicato alla scienza. Il marxismo ha proprio distillato questa idea, no? Cioè il marxismo, socialismo scientifico, cioè socialismo è una cosa che ancora non esiste e quindi che ci immaginiamo, però la immaginiamo scientificamente. E qui appunto, poi lì entrano tanti discorsi, Marx, che io da leninista penso che avrebbe dato ragione a Lenin, naturalmente, diceva il comunismo è un movimento reale che abolisce tutte le cose presenti, quindi sta già succedendo, quindi non è che me lo devo pensare io, ma in qualche modo devo osservare come in nuce succede, no? Che però è tipico della fantascienza anche quando la fantascienza non vuole farlo, perché ovviamente qualunque scrittore di fantascienza si immagina sempre dei mondi fra 10.000 anni che però assomigliano in maniera inquietante a oggi, no? Per cui Star Trek sono vestiti in maniera un po' che è uno dei quali più immaginifici, comunque tant'è che c'è il comunismo, non c'è il denaro, eccetera, però no, sono vestiti in un modo che adesso sembrerebbe già fuori moda adesso, figurati fra migliaia di anni. Però il tema secondo me è grosso di questa vicenda, mi è venuto in mente adesso sentendo parlare di Stella Rossa, cioè in Stella Rossa c'è già il socialismo, però siccome in un romanzo devi metterci un contrasto, e anche perché Bogdan voleva parlare di alcuni contrasti, c'è un contrasto che è spostato su qualche cosa d'altro. È interessante perché per parlare della rivoluzione, di una rivoluzione, o fai che il contrasto di cui parli è quello con i controrivoluzionari, o con, diciamo, con la reazione, o con chi dopo la rivoluzione la minaccia, che è un po' la scelta tutto sommato fatta con l'armata dei sonnambuli, oppure devi parlare di qualche contrasto interno. Ed è interessante perché la rivoluzione d'ottobre, mentre di altre rivoluzioni si parla di questi contrasti interni, la rivoluzione d'ottobre, per una convergenza di interessi fra i suoi nemici e i suoi, fra virgolette, amici stalinisti, c'ha una tendenza a essere raccontata invece senza contrasti interni. Oppure si racconta di quello così grosso che tutti conosciamo, quello tra Stalin e Trotsky, e tutta la... che semplifichiamo, però anche nel romanzo si vede che non è tra Stalin e Trotsky, ma è fra gli stalinisti, diciamo, e l'opposizione di sinistra, che è fatta da milioni di persone a un certo punto, l'Unione Sovietica, no, specialmente attorno al decennale della rivoluzione, e tutti le sue conseguenze a lungo termine. Però diciamo c'è stato qualche cosa d'altro anche prima, che non è soltanto menscevichi e bolscevichi, ma è stato anche qualcosa di più interessante. Ora, quello che volevo chiedere io è questo: io ho letto alcune cose sulla rivoluzione d'ottobre di narrativa. Vabbè, John Reed, I dieci giorni che sconvolsero il mondo, è una narrativa. Un po' saggistica, ma un po' giornalistica, però è narrativa. Lo stesso libro di Trotsky, Storia della Russia, è molto letterario. Parliamone, se è molto letterario. Esatto, se è un saggio, no? Poi ci sono i commentatori borghesi che dicono: ah, Trotsky invece di perdere tempo a fare rivoluzioni, vedete com'era bravo, era un po' più bravo di Bogdanov, nello scrivere, doveva scrivere romanzi invece di fare rivoluzioni, saremmo stati contenti tutti. Sì, dicono loro, e poi ho letto recentemente China Mieville, che ha scritto Ottobre, secondo me è forse il migliore di questi tre, è veramente eccezionale secondo me. Tutti e tre, diciamo, raccontano bene le dinamiche interne al partito bolscevico, come questa cosa sia successa un po' in maniera strana. Ora mi chiedo, ma in Italia, questa è una domanda che voi l'avrete cercata questa cosa, immagino, si è mai parlato narrativamente, forse della rivoluzione d'ottobre o di quel periodo in qualche maniera, diciamo, interessante dal punto di vista letterario? Perché a parte che voi E poi anche Scaramouche è comparso nel 1905, se andate a cercare c'è della fanfiction che ne parla, però diciamo mi stupisce questo fatto, mi chiedevo se invece è un errore, è un effetto ottico perché diciamo, non mi sono mai imbattuto in questi scritti, oppure se effettivamente non è stato prodotto niente e forse anche domandiamoci come mai. Forse Urania avrà pubblicato qualche romanzo cronico di fantastoria molto di genere, di alcuni. Ci sono degli autori che fanno solo questo, no? Ambientazioni di romanzi di fantascienza su sfondi storici, quindi per il calcolo della probabilità ce ne sarà stato anche uno durante la rivoluzione d'ottobre, ma stiamo veramente parlando di pochissima roba. No, ma anche non fantascienza, anche normativa normale. Mi risulta, no? Non è un'ambientazione da scrittore italiano, cioè molto poco frequentata. Cioè, il primo romanzo sulla rivoluzione d'ottobre di Tania. Non lo sappiamo, andrebbe verificata questa cosa, però cioè, già il fatto che non stiano girando nomi, ma no, come no? Cioè, quindi posso fare un... Scusate, io mi vengo da fuori, sono semplicemente un ultra sessantenne e volevo solo, perché io ero rimasto a proletari del mondo unito, ed era già un principio, scusate se mi dico, perché è solo un dubbio, ora è l'universalità fuori dal pianeta. Ma tornando alla nostra realtà, poi onestamente, con tutto il principio che è marxista, che con tutta questa storia che ho detto, secondo voi, proprio una semplicissima domanda, quello che è il conflitto ora tra popolo, perché noi siamo rimasti, qual è la vostra vita? Tra giovani, vecchi, rossi, neri e bianchi, alla realtà della vostra cultura e ideologia, qual è la vostra vita? Per la realtà di oggi legata a un principio marxista, leninista e tutto il resto. Non so se è lecito o no rispondere. Grazie. Ma per noi lavoratori di tutti i Paesi Uniti rimane attualissimo, anzi in questo momento è più attuale che mai. Cioè, più attuale che mai. Il resto? Il resto si parte da qua, il resto si affronta con quello. La politica quotidiana, questo no? La politica quotidiana è la lotta di classe e il lavoratore di tutti i Paesi Uniti vi si fa anche in Italia, significa non discriminare tra operai italiani e operai nati in altri paesi, significa lottare insieme tra lavoratori italiani nati qui e lavoratori nati in altri paesi, e sta avvenendo, appunto il movimento reale che abolisce lo stato di cose presente, sta avvenendo. Le lotte più importanti sul lavoro che sono fatte in Italia in questi ultimi anni sono fatte da lavoratori nati in Italia e lavoratori nati in altri paesi che lavorano in Italia insieme, e quindi i lavoratori di tutti i paesi... Ma tutto quello che è il lavoro interinale, i 6 mesi, e questi anche non fa nulla. No, come non fa nulla? Fanno come? Cioè, contro la precarietà nella logistica e la lotta di classe. Questa è lotta di classe, né più né meno, assolutamente. Grazie, scusate. Poi se ci sono anche gli extraterrestri ci uniremo anche ai proletari loro, però intanto ci divertiamo. A un certo punto il suo comandante Marco sconvolgò un incontro intergalattico contro il neoliberismo e prese la gioia di un'autorità. Anche Nicoletta Burbacchi, Alpinismo Molotov, vari collettivi da Unione Nordeste non fanno mai la riunione nazionale, fanno sempre la riunione galattica, perché a noi la parola nazione nazionale noi non ci piace. Bene. Direi che possiamo andare a respirare di nuovo. Grazie a tutti, grazie a tutti.